Vieni, ascolti te, vedi le mammole. Grazie, signor! Tutte le canzoni del Festival di Sanremo! Amando! Oh, e che cominciamo con l'acqua adesso? Apri le finestre al nuovo sole, è primavera. È primavera, si costa neve. Amando! Ma che sei sordo? Grazie, signor! I sogni, bambine belle, innamorate. Sono Arturo, al telefono! Il sogno che sognate, sarà domani la sole nel cielo fra le nuvole d'argento. Amando! Oh, finalmente! E ora che tu stai chiamando a parlare la partita, che non ci senti? E non ci sento no con tutta sta caciara che sta fa questa! Oh. Ma questa non è sia una casa, sia un inferno! Maria, chiudi la finestra! Maria! Oh, finalmente! E apri la radio adesso, ciò! Dal Festival di Sanremo trasmettiamo Aprite le finestre. Aprite le finestre al nuovo sole. È primavera, è primavera. Lasciate entrare un poco d'aria pura con il profumo dei giardini e prati in fiore. Aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle, innamorate. E forse il più bel sogno che sognate sarà domani la felicità. Nel cielo fra le nuvole d'argento, d'argento, la luna ha già fissato l'appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. Aprite le finestre al nuovo sol, finestre d'amore. Aprite le finestre al nuovo sol, tendine d'amore. Aprite le finestre al nuovo sol, persiane d'amore. Aprite che abbiamo capito, Maria, riapri la finestra, ciò!